24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8 e 18 minuti inizia la terza parte di 24 Mattino di questo martedì 14 aprile. Buona giornata, care ascoltatrici e cari ascoltatori da Simone Spezia, e buongiorno Maria Latella. Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori dopo questa lunga pausa di vacanza. Mica tanto lunga. Cara Maria, tra un attimo torneremo a Pierluigi Lopalco, che insomma ci accompagnerà come ordinario di genere all'Università di Pisa, il responsabile per la parte pugliese, per così dire, dell'emergenza. E però prima ti voglio portare insomma da Emmanuel Macron. Peter Bescapè, sentiamo un passaggio. Nous devons donc poursuivre nos efforts e continuare ad applicare le regole. Ed eccolo qua il discorso alla nazione di Emmanuel Macron, fino all'11 maggio ancora isolamento stretto, lockdown stretto, e poi parziale riapertura delle scuole, solo quelle per i più piccoli, vedi, non le superiori. Questo dà l'idea di come la Francia, che finora ha seguito quasi integralmente le mosse italiane, replicandole da quelle più evidenti. Lui stesso ieri ha detto: vi daremo informazioni ogni 2 settimane, che è un po' quello che sta facendo anche il governo italiano, procedere di 2 settimane in 2 settimane. Ma c'è questa novità, e la novità è che, a differenza dell'Italia, la Francia riapre le sue scuole, come ha fatto per esempio la Norvegia, che ha già riaperto gli asili nido, le scuole materne, proprio per consentire ai genitori che devono tornare al lavoro di riprendere una vita normale. E guardate che la Francia ha gli stessi problemi che abbiamo noi. Oggi, in un articolo su Le Figaro, Caroline Beyer racconta delle perplessità che ci sono nel corpo insegnante, e lo stesso ministro dell'educazione dice: dovremo fare sicuramente dei doppi turni, perché lì ci sono classi di 35 allievi, non 20 come da noi, 35. E però lo fanno. Perché? Perché, ha detto ieri Macron, si sta avendo una evidente situazione di disparità sociale, perché gli studenti che non hanno alle spalle famiglie che possono seguirli nei compiti online, che non hanno magari anche i tablet per farlo, o semplicemente, insomma, vivono una condizione meno sostenuta dalla famiglia, avranno dei gap che invece, secondo Macron, bisogna evitare. Sì. Dunque, io consiglierei alla ministra Azzolina e al nostro Ministero dell'Istruzione di dare un'occhiata a quello che il Ministero dell'Educazione francese sta predisponendo, perché hanno gli stessi problemi che abbiamo noi. Sì, bisognerà vedere. Detto ciò, dall'altra parte, diciamoci anche, Maria, che potrebbe anche essere una mossa azzardata, così come potrebbe essere una mossa azzardata quella di Pedro Sanchez, del premier spagnolo, che decide di far ripartire le fabbriche. Cioè, è una fase, una terra talmente incognita, che questa scelta francese, che all'apparenza adesso ci può sembrare illuminata, potrebbe essere esattamente la scelta sbagliata. Ma loro si sono presi un mese per preparare. I loro istituti scolastici sono vecchi quanto i nostri, quindi dovranno sanificarli, e ci saranno dei costi, ma evidentemente lo Stato francese ritiene che i costi di non riaprire la scuola sul lungo periodo siano più alti, dei gap, saranno più alti, piuttosto che investire ora nella sanificazione e nelle misure minime, di garanzia per gli studenti. Vedremo. Quanto agli insegnanti, ci saranno probabilmente delle resistenze anche tra gli insegnanti francesi, come abbiamo visto essercene in Italia, ma lo Stato ha deciso che così si fa, e penso che vedremo un po'. E chissà che ne pensa, per esempio, per Luigi Lopalco, che è ordinario di genere all'Università di Pisa, torna nostro ospite, è responsabile del coordinamento regionale emergenze epidemiologiche dell'Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale della Regione Puglia, di fatto la persona che dal punto di vista scientifico sta reggendo l'emergenza là in Puglia. Professor Lopalco, bentornato ai nostri microfoni, e che ci dice sulla riapertura delle scuole francesi? Buongiorno a tutti. Buongiorno. Come avete già sottolineato, non abbiamo dei termini di paragone, quindi non possiamo sapere che cosa succederà una volta riaperte le scuole in piena fase epidemica, perché di questo stiamo parlando. Cioè, in questo momento la Francia si trova in una piena fase epidemica. Sicuramente i rischi non sono quelli relativi alla salute dei bambini o degli studenti, perché sappiamo che questo virus molto raramente dà forme importanti, severe nei bambini e nei giovani. I rischi sono due. Il primo ovviamente è quello diretto per gli insegnanti. Se penso alla classe, diciamo, alla classe docente in Italia, che sicuramente non è giovanissima, sarebbero molti gli insegnanti che sono a rischio di infezione. L'altro rischio è il fatto che nelle scuole gli studenti possano essere un serbatoio di circolazione del virus e quindi poi possano diffonderlo riportandolo a casa. E questi sono i rischi, cioè questi sono dei rischi oggettivi. Poi come maneggiare questo rischio, ovviamente, appunto, come giustamente dicevate, dipende un po' dallo Stato, dipende dalla struttura sanitaria, da quelle che possono essere le azioni che possono minimizzare questo rischio. E come minimizzarlo? Sinceramente non è semplicissimo. Riducendo il numero di studenti in classe, aumentando i turni, scaglionando gli ingressi, cioè qui non si tratta tanto, appunto, di sanificare un istituto, qui si tratta di ristrutturare completamente quelle che sono le procedure, cioè i processi educativi, quindi classi più piccole, parte della... Prego. Sì, quando andavo alle elementari noi facevamo i doppi turni, perché essendo bambini del baby boom eravamo tanti, si potrebbe riprendere quell'abitudine, cioè fare dei turni al mattino, dei turni al pomeriggio, ingressi scaglionati. Ripeto, uno Stato deve fare dei calcoli e valutare quanto ci rimette ora in termini anche di investimenti, perché servono ovviamente dei fondi per poter procedere a questi distanziamenti, o quanto ci rimetterà ad avere per mesi una quantità di studenti. Non stiamo parlando dell'università, stiamo parlando dall'asilo alle medie superiori, di studenti con dei vuoti di preparazione. E quanto ci rimette anche col fatto che, diciamolo, saranno le mamme a dover rimanere a casa, perché se si riprende un'attività lavorativa, poi qualcuno deve stare con questi ragazzi se non ci sono le scuole. Quello è un tema quasi più sociale, insomma, no? non esattamente afferente alle specifiche del professor Lopalco. Sì. Senta, professore, si faccia fare una domanda un po' brutale, ma questi numeri che noi riceviamo quotidianamente dalla Protezione Civile sono dei numeri su cui fare veramente affidamento? Intendo, il numero di contagiati sappiamo oggettivamente essere molto più alto, il numero di morti a questo punto sappiamo essere molto più alto, perché c'è tutta la questione delle RSA sulle quali abbiamo numeri non chiari. Insomma, come dobbiamo prenderlo questo bollettino quotidiano? Allora, il bollettino quotidiano bisogna prenderlo per quello che è. Tecnicamente è un sistema di sorveglianza epidemiologica. I sistemi di sorveglianza epidemiologica, proprio per la loro natura, non sono dei sistemi completi, cioè non sono dei registri di malattia. Io con un sistema di sorveglianza non ho l'obiettivo di scrivere su un registro nome e cognome di tutte le persone infette, di tutte le persone decedute. Quella è un'altra cosa, è un altro lavoro. Il sistema di sorveglianza deve darmi un'idea dell'andamento dell'epidemia. Quindi i numeri che noi stiamo raccogliendo e che stiamo dando quotidianamente sono i numeri, cioè è il loro lavoro, è semplicemente il loro lavoro, è il lavoro di un sistema di sorveglianza. I sistemi di sorveglianza sono affetti da una sottostima, lo si sa benissimo. Questa sottostima più o meno è valutabile da mediamente da 1 a 5 a 1 a 10, a secondo delle fasi dell'epidemia, a secondo della qualità del sistema, a secondo della capacità della diagnostica. Quindi noi sappiamo, ma lo sapevamo fin dall'inizio, lo sappiamo da sempre per tutti i sistemi di sorveglianza di malattie infettive, che per ogni caso notificato probabilmente ci sono 3-4 che non sono stati notificati. Potrebbero anche arrivare a 10 in una situazione epidemica grave, come è stata quella del picco della Lombardia, in cui non era oggettivamente possibile fare diagnostica a tutti, quindi confermare tutti i dati e riportare tutti i dati. È un punto... Senta, professor Lopalco, che cosa possiamo sapere in più rispetto a quello che abbiamo letto sui quotidiani, sui test che saranno appunto accelerati a questo punto in Inghilterra. 500 volontari sani si sottoporranno al test sul vaccino che è stato messo a punto da un'azienda di Pomezia. E si dice, beh, questo vaccino potrebbe già essere utilizzato a settembre per il personale sanitario e per le forze dell'ordine. Ci possiamo sperare? Come dire, è una scommessa. È ovvio che la sperimentazione di un vaccino è una scommessa. Il fatto di aver accelerato questa fase di sperimentazione, una fase 2, cioè laddove si vede effettivamente se i vaccinati sviluppano anticorpi, non solo, ma probabilmente nel caso in cui fosse possibile, eticamente accettabile, fare il cosiddetto challenge test, cioè infettare una persona vaccinata per valutare l'efficacia nei confronti del virus, è chiaro che i tempi di sperimentazione sarebbero accorciati di moltissimo. E avere un prototipo funzionante, quindi prodotto su piccola scala, giusto la scala necessaria per la sperimentazione, a settembre ovviamente sarebbe un grosso passo avanti se questo vaccino funziona. Quindi se questo vaccino funziona, abbiamo un prototipo funzionante a settembre, si può sperare che per l'inizio del prossimo anno si potrebbe eventualmente avviare una produzione su larga scala, perché appunto dall'avere un vaccino funzionante poi a produrlo in milioni di dosi ovviamente ce ne passa, perché poi bisogna avviare gli impianti, bisogna avviare tutti i processi di controllo di qualità, perché costruire un vaccino non è la stessa cosa che fabbricare una compressa, ecco, cioè è più complicato oggettivamente. Troppa gente fuori casa, si è detto in queste ore, anzi aspetto gli ascoltatori all'800 24 00 24, chiamateci in diretta, raccontateci un po' di questo fine settimana e diteci come la pensate. In realtà, professor Lopalco, si è detto molto anche vedendo quello che è successo in Lombardia dal punto di vista sempre di questi numeri nel corso di questo weekend, posto che parliamo di numeri che probabilmente fanno riferimento a situazioni di due settimane fa o tre settimane fa. E l'interpretazione che ho letto e che ho trovato interessante è questa: c'è un'accelerazione, per così dire, dei contagi in famiglia, ossia gente che è messa in quarantena positiva a Covid-19 oppure asintomatica, paucisintomatica, come dite voi, che ce l'ha ma non sa di averlo, che l'ha trasmesso alle persone che sono in casa con lei. Ci potrebbe essere, questi numeri potrebbero essere il risultato, il portato di un fenomeno di questo tipo? Ma potrebbero, non possiamo escluderlo, ovviamente lo può sapere solo chi sta seguendo l'epidemia sul territorio, sono i dipartimenti di prevenzione che hanno maggiore il polso della situazione. Ora, una diffusione intrafamiliare di casi, se poi il lockdown è effettivo, non dovrebbe produrre numeri molto molto alti, perché un caso al massimo ne genererebbe un altro, altri due, quanto grandi potranno mai essere questi nuclei familiari. E il problema è che se io invece contagio un mio familiare, questo familiare magari è un operatore sanitario che poi va a lavorare in ospedale oppure va a lavorare in una residenza per anziani, beh, allora lì sì, il pasticcio si crea. Oppure se questa persona che viene contagiata esce di casa perché magari deve andare a lavorare in una delle aziende che in questi giorni lentamente si sta riaprendo, lì si crea il problema. Esclusivamente con contagi intrafamiliari io dei grossi numeri sinceramente non me li aspetterei, però ripeto, bisogna conoscere la situazione sul territorio e io non la conosco. Maria? Lopalco, capisco che stiamo un po' andando avanti, forse troppo, però anche complici le belle giornate la gente comincia a pensare alle vacanze. C'è tutto un comparto, quello del turismo, che conta sul fatto di avere più italiani, visto che mancheranno gli stranieri, e c'è tutto un comparto, quello balneare, che si chiede come e quando potrà riaprire. La sottosegretaria Bonaccorsi ha dato un segnale positivo, incoraggiante, dice sì, riusciremo ad andare al mare, magari con la mascherina. Lei come vede l'ipotesi che ci sia folli sulle spiagge dove tutti più o meno insomma vorremmo tornare? Ma lei prima faceva riferimento, no, alla nostra infanzia. Anch'io sì. Sono figlio del baby boom. Io ricordo che quando andavo a mare le spiagge erano semideserte. lo spazio c'era. E questo perché? Perché ovviamente era soltanto turismo locale, non ci si spostava. Io credo che in una situazione del genere, in cui molto probabilmente stranieri non ne arriveranno e sarà molto molto limitato anche lo spostamento da regione a regione in Italia, se pensiamo ad un turismo prettamente locale, io credo che le spiagge potranno essere gestibili. L'importante appunto è cercare di mantenere un po' di distanza, cercare di non avere assembramenti, si farà un po' più di attenzione nei luoghi, diciamo, di incontro, come può essere, non so, un bar, per esempio, con magari ingressi scaglionati. Bisogna evitare gli assembramenti. Poi speriamo che quest'estate la situazione epidemiologica si sia un po' calmata, tranquillizzata. Ci sarà probabilmente anche l'estate in sé che rallenta la corsa di questi virus, perché si vive di più appunto all'aperto. Cioè, in quel momento paradossalmente magari stare in casa non sarà più così tanto stringente e consigliato, perché se un nucleo familiare si trova all'aperto, distante da altri nuclei familiari, non c'è nulla di male, si può vivere tranquillamente magari una giornata all'aperto, in campagna, nei boschi, in montagna o al mare. Professor Lopalco, lei è tifoso di calcio? No, sono assolutamente... lo farebbe ripartire il campionato? Che allora, qua si sta, cioè, discussione aperta ormai, Fatta questa premessa, che sinceramente non mi sono nemmeno accorto che si fosse chiuso, cioè non guardo il calcio, non seguo il calcio. Però allora, sicuramente gli stadi non si possono riempire, su questo non si discute, cioè gli assembramenti, i grossi assembramenti penso che saranno gli ultimi a ripartire. Una partita di calcio a stadio chiuso, diciamo a porte chiuse come si suol dire, e bisognerebbe garantire la salute comunque sia dei giocatori che di tutto lo staff che ruota intorno ai calciatori. Se si riuscisse a garantire, la vedo un po' difficile, perché il calcio, cioè, è un gioco con molto contatto fisico, quindi, e si è visto, no, già all'inizio, che tanti calciatori sono risultati positivi. Quindi chissà, vedremo, perché qua c'è il dibattito apertissimo, Rezza, l'Istituto Superiore di Sanità, così che ha detto non darei l'ok. Sì, prego. Sì. È apertissimo il dibattito sulla scuola, vedo che tanti nostri ascoltatori ci scrivono, a uno di questi vorrei dire che non ho detto niente sugli insegnanti. Come mai uno scrive, dice, ma questa ostinazione a parlare male degli insegnanti? Non ho proprio citato gli insegnanti, ho citato il fatto che almeno in Francia c'è grande preoccupazione per il futuro degli studenti. E quanto a una mamma che dice, sì, io vorrei tanto poter lasciare il bambino all'asilo nido, perché dobbiamo tornare io e mio marito al lavoro, ma come si farà? Ecco, il punto è proprio questo. Se riaprono gli asili nido in Francia o in Germania, forse potremmo guardare, in questo caso, aprirli dopo e copiare le loro misure, così come loro hanno copiato molte delle nostre misure. Sì, in questi casi si guarda alle migliori pratiche e si copia. Come ha detto però il professor Lopalco, non sappiamo se queste pratiche siano le migliori oppure no, perché viaggiamo in terra incognita. Ci fermiamo, una pausa. Intanto ringraziamo il professor Lopalco, grazie per essere stato con noi. Professore, buona giornata. Buona giornata. Buon lavoro. 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Una pausa, tra poco. Mattino. Paolo dalla provincia di Lucca, buongiorno Paolo. Buongiorno a voi tutti. Buongiorno a voi. Dunque, la mia testimonianza è sul rispetto delle disposizioni in materia di circolazione. Devo dire che in questi punti io peraltro lavoro anche sul viale a mare a Viareggio, quindi che è un posto affollatissimo di solito. Vi assicuro che era allucinante vedere queste zone completamente vuote. Io mi sono mosso in questi 3 giorni 4 volte giusto per andare a assistere un po' la mia mamma ultraottantenne, e devo dire sono stato fermato un paio di volte dalla polizia municipale, peraltro molto gentili, molto educati, come sempre. Quindi controlli che funzionano e luoghi e completamente deserti. E italiani che rispettano le regole, questa è una buona cosa. Italia, no? Però la mia testimonianza appunto è esclusivamente qui su Viareggio, sulla Versilia. Direi assolutamente sì. Giampiero da Milano, buongiorno. Buongiorno a tutti. Prego. Io mi chiamo Giampiero Potenza, sono un medico di un pediatra. che lavoro fra Milano e Lodi. Io ho telefonato solo per spiegare una cosa, sperando che l'amplificatore di Radio 24 possa essere utile. Sull'osservanza delle disposizioni in merito all'uso della mascherina o dei foulard che coprono la bocca. Allora io vorrei fare un po' di chiarezza alle persone che dicono: se sto passeggiando da solo posso stare con la bocca scoperta. Allora, sappiamo solo una cosa sicura di questo virus, come gli altri virus influenzali, che si trasmette con i droplets, quindi con le goccioline di saliva e l'alito e il respiro. Il mio respiro, così come se fossero delle bolle di sapone, se viene una folata di vento, può raggiungere anche distanze superiori a un metro. Se io mi tengo il mio respiro al di qua di una qualunque barriera e me lo tengo ogni volta che esco di casa, i contagi sono zero. Quindi il tema è, Giampiero, meglio tenere la mascherina di qualsiasi tipo sia. Di qualsiasi tipo, fosse anche segnalazione, un colar. Segnalazione che raccogliamo. Massimo dalla provincia di Lecce, buongiorno. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Una domanda alla dottoressa Latella, visto che è così sensibile nei confronti della scuola. Io vorrei porle un problema. Io ho un problema almeno in famiglia. Ho il figlio che sono di Lecce, ho il figlio che studia medicina a Roma. Ok, università chiuse. Naturalmente il ragazzo con molto ritardo, facendo la quarantena, è rientrato a casa, quindi studia in modalità smart working, come si detto, no? Quindi videoconferenze. Però in medicina gli esami ci sono prima gli iscritti e poi gli orari. Praticamente gli iscritti è impossibile darli, si possono dare solo gli orari, ma siccome prima ci sono gli iscritti e poi ci sono gli orari, praticamente da adesso a settembre iscritti non si potranno dare, si rischia di buttare via un anno. Cioè è inutile che facciamo le lezioni, però di fatto gli esami iscritti non si possono praticamente svolgere. Quindi non so se Si è spiegato bene. Allora, intanto diciamo che per gli studenti universitari, se capisco bene anche per suo figlio, si tratta semplicemente di rinviare la data degli esami, che è una scocciatura, per carità, nessuno lo nega. Però almeno la didattica continua. Le lezioni del professore universitario, che sia di anatomia o che sia di un altro esame di medicina, continuano. Suo figlio ha la possibilità di apprendere. Questo è come dire, già un gran passo avanti. Infatti nessun paese riapre le università, perché gli studenti universitari avranno lo svantaggio di dover dare gli esami uno dopo l'altro alla riapertura dell'università, però intanto apprendono. Il problema è per tutti gli altri, perché è complicato un bambino di prima elementare o di seconda elementare tenerlo su un tablet, o quelli che ce l'hanno poi i tablet. Comunque grazie per la segnalazione, perché lei ci evidenzia un problema serio, anche gli studenti universitari che stanno affrontando. Certo, anche quello degli studenti universitari. Buongiorno a Matteo Mauri, Vice Ministro dell'Interno, torna da noi. Mauri, eccoci. Buongiorno a voi. Allora, questi italiani sono disciplinati oppure no? Ma dobbiamo dire che sono abbastanza disciplinati, perché i dati, insomma, diciamo dall'11 marzo in poi, dimostrano che le regole vengono rispettate. Diciamo che c'è stata una piccola eccezione durante Pasqua, durante la giornata di Pasqua in particolare, perché sono cresciuti le sanzioni in funzione dei controlli. Però dall'11 marzo noi abbiamo avuto, vi do un dato oggettivo, così possiamo riflettere su quello, abbiamo avuto un numero di controlli che è praticamente superiore ai 7 milioni, e per cui un numero straordinario, devo dire, di cui dobbiamo essere grati a tutte le forze dell'ordine, che stanno facendo un lavoro straordinario. E a fronte di 7 milioni e passa di controlli, ci sono state contestate 256.000 sanzioni, per cui attorno al 3,6%. Nella giornata di Pasqua queste contestazioni, queste sanzioni sono aumentate, sono arrivate al 6,4%. Quindi un po' di più, per cui a Pasqua diciamo che siamo stati meno bravi rispetto agli altri giorni. Maria. Dario, questa mattina più di un quotidiano mette in luce che in Italia le regioni vanno ciascuna per conto proprio. A me però sembra che ci sia anche una logica in questo procedere diciamo in ordine sparso, perché se abbiamo detto per settimane che la ripresa doveva cominciare in una forma scaglionata, e cioè cominciare prima dove il virus ha colpito meno, poi non ci possiamo stupire che appunto alcune regioni possano anticipare delle misure che altre, penso purtroppo al drammatico caso della Lombardia, non potranno. Quindi non è un po' eccessivo tutto questo, questa polemica sul fatto che le regioni vanno per conto proprio? Se penso al Lazio, per esempio, toccando legno, ci sono state delle misure prese in anticipo e quindi gli effetti del coronavirus si sono sentiti meno, se nel Lazio si procederà prima a riaprire, faccio per dire, mi sembra anche logico, normale, o sbaglio? Ma io credo che avere un sistema differenziato sia un valore aggiunto, per cui non condivido alcune polemiche che ci sono state. Rispetto al tema delle aperture bisogna stare molto attenti, cioè mentre io penso che sia utile che alcune regioni, le più colpite, possano aver usato dei criteri più restrittivi, per esempio su alcune riaperture, per esempio alcune regioni come la Lombardia o il Veneto, l'Emilia Romagna sono più caute, invece, e questo penso che sia corretto, invece penso che sulla riapertura tutto questo debba essere sempre molto coordinato tra regioni e Stato nazionale, cioè per capirci, se vuoi chiudere un po' di più perché la tua realtà è stata più colpita, lo puoi fare, così come si potevano definire delle zone rosse. Se invece vuoi aprire più velocemente, questo deve essere concordato, perché lì ci deve essere un principio di precauzione, perché sappiamo tutti perfettamente che la curva del contagio va molta fatica a scendere, e di conseguenza è meglio qualche cautela in più che qualche cautela in meno, perché aprire troppo presto significa probabilmente anche rischiare di poter aprire più tardi, cioè di arrivare a un livello di normalità più tardi, e su questo credo che ci debba essere un interesse nazionale prevalente. Senta Mauri, dal lato dei controlli, ha parlato di 7 milioni di controlli, di questa percentuale piuttosto bassa di violazioni. Le faccio una domanda un po' su un caso singolo, che però insomma dà un po' lo specchio di quello di alcune cose che stiamo vedendo in questi giorni. Ieri milioni di italiani in TV hanno visto un elicottero della Guardia di Finanza che inseguiva un uomo da solo sulla spiaggia. Insomma, ha senso una cosa di questo genere? Poi a prendere i casi singoli è sempre. No, però ha capito cosa dite, cioè il caso singolo che però no, rappresenta un po' una sorta di caccia all'untore del solitario sulla spiaggia. Insomma. In realtà in quel caso ovviamente l'elicottero della Guardia di Finanza era in giro a fare il pattugliamento, nel momento in cui ha visto una violazione l'ha segnalata, ovviamente non si è alzato in volo per quello sulla spiaggia, così come le posso anche citare quelli che facevano la grigliata sul tetto pensando di non essere visti e sono stati beccati dall'elicottero dei carabinieri. Secondo me il messaggio che passa è: nessuno provi a fare il furbo, perché stiamo facendo una cosa così a tappeto che vi becchiamo. Ecco, se il messaggio che passa è questo, secondo me va bene anche quello sulla spiaggia. Poi che quello sulla spiaggia rischiasse di infettare solo i pesci, questo può essere vero, però nell'azione di pattugliamento è giusto che ogni infrazione che venga riscontrata poi venga perseguita. Maria? Senta Mauri, come funzionerà la nuova task force di Vittorio Colao, che ha 17 esperti di competenze diverse, ci sono economisti, ci sono psicologi, sociologi, perché molti si chiedono come conviverà la task force di Vittorio Colao con quella che aveva già messo su la ministra Pisano, quella che punta appunto a un tracciamento dei soggetti proprio in vista della fase 2. Avete un'idea di come conviveranno queste due task force? Ma in realtà fanno due lavori diversi, nel senso che quella del ministro Pisano è molto più specifica e ha da una logica, un approccio sanitario, invece l'altra ha una visione più complessiva, e cioè condurre il paese per mano, o meglio dare i consigli per condurre il paese per mano fuori dalla fase 1 e poi progressivamente verso la normalità. Per cui diciamo che la prima può essere un pezzettino della seconda. Poi ci vorrà una task force che coordini tutte le task force, Mauri, perché ne stiamo mettendo insieme su... una task forceona. Esattamente. E d'altronde ci troviamo di fronte a una situazione talmente nuova e complicata, dove il tema della complessità è evidente a tutti. Sì. Quando si affronta anche una singola questione si capisce perfettamente quanto sia difficile, per cui sono meglio due occhi in più che due occhi in meno. Cesare dalla provincia di Arezzo, buongiorno. Rapido, sì. Rapido, Sì, buongiorno. Senta, ma io ho guardato un po' i numeri che ha diffuso l'Istituto Superiore di Sanità, ma la mortalità che sta... Cioè, qui passa il concetto che fuori c'è un cecchino che appena usciamo ci secca, ma non è così, non è così, questo lo dovete dire bene. Anche in Germania la mortalità è il 2 punto qualcosa per cento contro il 12 meglio da noi. Ma è una cosa allucinante questa cosa qui, cioè si fa mistificazione sui numeri. Quindi voi dovete chiarire bene che probabilmente questo virus gira tra la popolazione ma da tempo, e la gran maggioranza ha pochissimi sintomi. Cesare, guardi, è quello che stiamo dicendo, l'abbiamo detto anche con Lopalco prima ci ha detto che in Lombardia può darsi anche che il numero sia, diciamo, 10 contagiati veri su ogni contagiato registrato, insomma, quindi il punto è questo. C'è una questione che ha a che fare con i numeri, Mauri, sui quali non abbiamo chiarezza, anche proprio per la differenza regionale che citavamo prima. Insomma, alcune regioni fanno più tamponi, altre ne fanno di meno, e quindi un quadro epidemiologico preciso, anche poi per prendere voi le decisioni, no? Perché il governo decida quando si riparte, quando non si riparte, insomma, non è facilissimo gestirla così. È vero che il numero di contagiati è sicuramente più alto, anche in maniera consistente, di quello che risulti, e di conseguenza anche la percentuale italiana apparentemente è molto più alta rispetto ad altri. In ogni caso comunque il virus è molto pericoloso, perché altrimenti non avremmo, ragioniamo in termini di morti assoluti, così tanti morti in termini assoluti, per cui la pericolosità è assolutamente evidente, soprattutto per alcune fasce di popolazione, lo sappiamo bene, le anziane, ma comunque è il peggior contagio che si sia registrato in Italia negli ultimi 100 anni come pericolosità, e per cui questo non ci deve far abbassare mai la guardia. Poi è vero che il numero dei tamponi fatti incide sulla proporzione, però guardi, io insisto molto su questa cosa, me lo permetta, se noi ci diamo degli argomenti per abbassare la guardia rischiamo di farci del male, sia in termini sanitari e perciò di morti, stiamo parlando di una cosa seria, sia in termini di uscita. Più siamo rigorosi adesso e prima ne usciamo, è come quando uno fa l'influenza, quella normale sto dicendo, e poi esce di casa 2 giorni prima, rischia di fare la ricaduta. Ecco, noi dobbiamo evitare assolutamente questa cosa, sia per uscirne prima, sia per evitare poi ricadute più avanti, perché noi non conosciamo il virus, per cui non sappiamo il prossimo inverno, per capirci, se e come si ripresenterà, e siccome il vaccino non è lì fuori dalla porta, noi dobbiamo stare molto attenti da questo punto di vista. Mi pare che quello che ha detto anche Macron, ammettendo, lui che certamente non è umile, ammettendo che rispetto a questo bisogna guardare a questo evento con umiltà. Senta, Mauri, io ho una curiosità. Un paio di settimane fa la ministra Lamorgese, che avevo intervistato a Sky, mi disse che era in arrivo una app che poteva proteggere le donne dalla violenza dei loro partner, perché sono crollate le richieste di aiuto al telefono rosa, altri telefoni, la convivenza mette queste donne più a rischio e anche nell'impossibilità di chiedere aiuto. Questa app, che era allo studio del Viminale, è stata poi realizzata? Sì, è quella della polizia, tutti la possono trovare anche sul sito della polizia, ed è quella attraverso la quale si possono segnalare diversi reati, tra cui questo, e come giustamente ha detto lei, questa è una fase molto delicata, perché la convivenza forzata 24 ore al giorno sta facendo esplodere i conflitti familiari, e laddove ci sono già delle situazioni molto critiche di violenza familiare, di violenza di genere, questo può portare delle conseguenze molto gravi. E il numero di telefonate, come le dice, è diminuito. Per quale ragione? Perché è più complicato trovare anche il momento di tranquillità in casa per avvisare le forze dell'ordine. Per cui l'app è anche utile, perché uno non deve mettersi banalmente al telefono parlando ad alta voce, con il rischio di essere scoperto dal partner, dal compagno. Quindi come funziona? Ce lo può spiegare? Ma sostanzialmente c'è la possibilità di segnalare attraverso questa app la situazione in cui si è, come se si fosse al telefono, per capirci. Così è. Abbiamo forse un paio di WhatsApp audio sul tema dei controlli. Peter Bescapè, vai. Sento tutti che si lamentano perché dicono ero io solo in macchina, ero io solo alla strada. È il solito ragionamento di questo popolo. Ah no, ma io sono passato col rosso, ma non c'era nessuno. Ah, io non ho pagato questa tassa, ma non la paga nessuno. Ah, io che ho fatto di male a buttare una sigaretta, che vuole che sia una sigaretta per terra. E chiudiamo con questo editoriale, direi, dell'ascoltatore, Maria. Grazie Matteo Mauri, vice ministro dell'Interno, per essere stato con noi. Buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro a voi. Buona giornata. Maria, ci risentiamo domani 8:20, naturalmente. A domani. Ciao Simone, ciao a tutti. Allora, domani con Maria Latella, invece noi ci risentiamo domani mattina alle 6:30. Grazie a Peter Bescapè in regia, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Gloria Guerrero in assistenza e redazione, Margherita Ene e Francesco Ciaraffo, i nostri autori. A domani alle 6:30. Ciao.